9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end. Buona giornata, buon primo giorno successivo al giuramento del governo Monti, Santa Elisabetta d'Ungheria. Dite, ma come? Ma tu non ci avevi detto che mettevi dentro fino a che non c'era il passaggio a una situazione più stabile? E appunto, e noi i Doors di Apocalypse Now continueremo a metterli fino a che avvertiremo intorno a noi quell'odore di napalm. Vi ricordate quando c'è la scena in cui fa spianare dal napalm il colonnello Kilgore per fare surf la mattina, e dice: mi piace il napalm la mattina, odore di vittoria. Insomma, era chiaramente una rappresentazione paradossale delle follie a cui può arrivare il potere che smarrisce il senso dell'equilibrio. E allora, perché tengo The Doors? Perché la realtà è che a me pare che bisogna augurarsi che il governo Monti, sul quale vi chiedo opinioni, quindi telefonate subito e mettetevi in fila per darci le vostre opinioni, perché come ieri faremo tutta la seconda parte della trasmissione con i microfoni aperti alle vostre opinioni, mentre nella prima sentiremo due ospiti. Ma mentre bisogna augurarsi che le comunicazioni di fiducia sul programma di governo dissipino ogni dubbio in merito alla possibilità che almeno due maggiori partiti dell'ex maggioranza e dell'opposizione diano sostegno a Monti per fare tutto il necessario per allontanare l'Italia da quella scomoda, antipatica, miserabile posizione di condannato alla sbarra di maggior fonte di instabilità del mondo, dall'altra mi pare di potervi dire che il guaio è ancora maggiore, perché se anche, come speriamo, l'Italia si tirerà indietro da questo ruolo di bomba che etichetta pronta a esplodere, nella realtà il 2012 si approssima da tutti i segnali dei mercati come l'anno della crisi dell'euro, l'anno sul quale i mercati scommettono pesantemente. L'avete visto oramai il disallineamento della curva dei rendimenti nei titoli pubblici europei. In generale, la Francia, come è giusto vista l'esposizione del suo sistema bancario al totale dell'Eurocarta, e avverte intorno a sé sempre più con chiarezza che la sua AAA è solo sulla carta, perché oramai il comportamento dei mercati già sconta il fatto che non ci sia più la AAA. E al di là di questo, tutti scommettono sul fatto che prima delle elezioni tedesche, che sono nel 2013, la Germania non cambierà idea, e che quindi la prospettiva sulla quale continuerà a tenere fissa la barra e il timone è quella della deflazione interna per i paesi che non fanno virtù pubblica e non hanno produttività nell'economia reale. E le cronache di tutti i giornali europei le trovate piene di cose che vanno in questa direzione. Voglio dire, abbiamo il capo dell'Eurogruppo Juncker che lancia un attacco durissimo oggi su Spiegel Online, addirittura su che cosa? Sul debito pubblico tedesco troppo alto, per esempio. E così via, difficoltà in Belgio per la formazione del governo. Il ministro delle finanze portoghese Vítor Gaspar ha detto ieri che la riduzione del deficit prevista per il suo paese è fuori rispetto agli impegni, non si riescono a rispettare gli impegni, e ha detto: del resto noi non sappiamo più cosa fare, perché c'è un eccesso di austerità ulteriore, deprimerebbe ancora e allontanerebbe la possibilità che noi raggiungiamo gli obiettivi. È la stessa ragione del resto per cui Anthony Samaris, che è il capo di Nea Democratia e dell'opposizione conservatrice in Grecia rispetto al governo uscente, che era socialista, del PASOK, nel dare sostegno a Lucas Papademos, l'ex banchiere centrale che ha vinto la fiducia, ha ottenuto la fiducia nel Parlamento greco, ha detto che il capo dell'opposizione, che non se la sente minimamente di dare alcun impegno scritto a un sostegno duraturo nel tempo a ulteriori misure di austerità, perché come il ministro delle finanze portoghese anche il capo dell'opposizione greco dice c'è un limite oltre il quale l'avvitamento dell'austerità rende impossibile il raggiungimento degli obiettivi della virtù pubblica. Che cosa stanno, cosa ci dicono messaggi come quello di Anthony Samaris e quello del ministro delle finanze portoghese? Che tutti iniziano a farsi il conto di quanto sia conveniente concordare meccanismi, vogliamo chiamarli di uscita? Ecco, di uscita dall'euro. E a dirvela per tutta, siccome il mercato sconta che qualcosa avverrà, ci sono due grandi prospettive di fronte a noi. Ed è per questo che l'Italia deve riuscire a levarsi dal guaio in cui sta, perché deve sedersi a un tavolo e trattare. Le due alternative teoriche, non voglio dire che sono dietro l'angolo, ma teoriche, di cui il mercato sconta la possibilità statistica sempre maggiore, sono queste. O escono i deboli, i paesi in difficoltà, la Grecia, il Portogallo, l'Italia. Chissà, la Francia, ma però il problema è che per chi esce, il guaio che si crea, ed è un guaio enorme, è che resta con tutte le posizioni di debito e credito sull'estero denominate in euro, mentre che cosa fa? Si trova con tutte quelle nel mercato domestico svalutate in lire, e questo significa per migliaia e migliaia di imprese, oltre che per banche, un impatto terribile, per moltissime di loro andare a gambe all'aria. È molto meno traumatico che siano i tedeschi, gli olandesi, paesi scandinavi, l'Austria, cioè coloro che in teoria se escono devono rivalutare rispetto all'attuale corso dell'euro sul dollaro, a prendere un'altra strada, facendo rimanere nell'euro quelli che ci sono oggi, perché chi deve rivalutare ci guadagna invece che perderci, perché, per così dire. Se ha una posizione poi di bilancio dei pagamenti tanto attiva come ce l'ha la Germania, ve l'ho buttata lì, ma guardate che il conto da fare, il conto cioè di quale sia il limite entro il quale conviene rimanere dentro un'unione monetaria che non si decide a unificare i mercati e avere un debito comune e una banca centrale comune vera come quella americana, e il conto dell'uscire, iniziano tantissimi a farselo, e non è follia parlarne, purché non lo si indichi con la prospettiva populista di dire alla gente per prendere voti facciamolo perché ci hanno ingabbiato. No, realisticamente e ragionevolmente io vi avviso solo che i DORS li teniamo, anche perché è sempre più tangibile per chi guarda i mercati, per chi vende gli spread, per chi quindi a questo punto vi deve dire che gli spread difficilmente, anche se il governo Monti farà benissimo, potranno stabilmente scendere sotto quota 400, perché oramai c'è un'ondata che monta di settimana in settimana rispetto a quando andammo noi al centro dello schiaffo e arrivammo a quota 500-570, invece di dirvi che se non scendono è perché vi hanno truccato le carte per far cambiare il governo. Bisogna guardare l'amara realtà di questa costruzione dell'euro realizzata solo per un verso e con una sola strada, quella della correzione di deflazione interna, per indurre gli elettorati a capire che a quel punto politici che ci hanno indotto a questo vanno cacciati via e non vanno ripresi più, ma nel frattempo si paga l'amaro prezzo della deflazione sui salari e sul valore reale degli asset patrimoniali di risparmio. Chi dice che i tedeschi sono matti in questo, perché la prospettiva migliore è quella keynesiana della banca centrale che stampa soldi per tutti, dimentica la durezza della lezione attraverso la quale i tedeschi hanno maturato questo modello, è la durezza della lezione di Weimar e del stato latrie rosse e nere dello scorso secolo. Io continuo a pensare che questa strada, quella tedesca, in realtà sia una strada di virtù con meriti molto maggiori, a patto che politici sappiano interpretarla nella maniera giusta e non se la prendano poi con le conseguenze di ciò che non hanno saputo fare. Certo, il prezzo per gli elettorati può essere molto amaro per i contribuenti e per i lavoratori, e questo dovrebbe essere nella visione di questa maniera di uscire dal disastro del secolo scorso che abbiamo alle spalle, la visione di indurre la gente a dare giudizi preventivi prima, a non fidarsi dei politici che raccontano palle, a non fidarsi dei politici che non capiscono il mercato, a non fidarsi dei politici che dicono che è sempre colpa degli altri, anche se l'esperienza italiana dimostra che ci ricaschiamo spesso. Ora, sul governo Monti e su questo quadro poco radioso di euro problema che nel 2012 c'è comunque, sentiamo gli ospiti della nostra trasmissione. Abbiamo con noi Renato Gianola, vice direttore dell'Unità, che saluto e ringrazio, buongiorno. Buongiorno a voi. E Alessandro De Nicola, lo conoscete, avvocato, e soprattutto qui in questa veste è quella di presidente dell'Adam Smith Society, editorialista del Sole 24 Ore. Buongiorno avvocato De Nicola. Buongiorno. Gianola, che pensa del governo Monti per come è nato, per come è composto e soprattutto della possibilità che ha di tirare fuori l'Italia da un guaio che a me sembra comunque continentalmente avviato a prospettive non molto allegre? Ma il governo Monti nasce da una situazione di drammatica emergenza in cui siamo precipitati noi, ma è precipitata diciamo almeno metà dell'Europa, e non è finita. Nasce in condizioni direi abbastanza strane, perché il governo Monti oggi arriva alle Camere, non sappiamo ancora qual è il programma di Monti. Nasce da una forzatura, diciamo così, da una regia molto presente, molto personale, molto istituzionale del Presidente della Repubblica. È andato oltre? No, non è andato oltre, ma sai, qui la nostra Costituzione, le nostre regole, la nostra disciplina politica e istituzionale varia a secondo dei momenti storici. Ci sono stati altri passaggi nei decenni passati in cui si pensava che ci potessero essere state delle forzature da parte dei presidenti della Repubblica di allora, no? I governi tecnici degli anni 90, certe forme di concertazione portate all'estremo. Oggi in una situazione molto difficile Napolitano si è preso su di sé delle responsabilità che sono quelle sue istituzionali e forse anche delle responsabilità più politiche, quelle cioè di indurre le forze politiche maggiori a un governo di tecnici, a un governo che, lo speriamo tutti, poi può piacere o non piacere, ci porti fuori in questa situazione oggettivamente molto delicata. È un governo così, sui nomi, chi potrebbe dire qualcosa sui nomi, no? Si presenta benissimo, insomma, oggi scorrendo un po' i ritratti di queste persone che fanno parte del governo, uno potrebbe dire che se uno non ha fatto almeno uno stage ad Harvard, non ha preso un diploma ad Harvard, qui non si può neanche discutere nel Consiglio dei Ministri. Detto questo, la mia perplessità è politica. Io preferisco di gran lunga i governi politici, preferisco che i governi nascano da un passaggio parlamentare, preferisco soprattutto che gli elettori possano dire la loro, anche se magari possono così sbagliare pure loro. Purtroppo questo governo fa emergere una tecnocrazia che c'è sempre stata ed è sempre stata presente nel nostro paese a livello di gestione del potere finanziario, del potere economico, anche del potere politico, e che oggi, giocando sulla debolezza intrinseca, evidente, palese, drammatica della nostra politica, della nostra classe dirigente, diventa, diciamo, una tecnocrazia che deve salvare il paese. È un'operazione, diciamo, che speriamo vada bene, ma è un'operazione secondo me pericolosa anche per le nostre istituzioni democratiche. Cioè, il passera che fino a ieri faceva l'amministratore delegato di Banca Intesa e oggi me lo ritrovo a fare il super ministro dello sviluppo, a me mi crea simpatia, per carità, verso di lui, ma mi crea anche un po' di imbarazzo, insomma. Cioè, qui le cose non stanno andando regolarmente, lisce, come dovrebbe essere in una grande democrazia europea. Se cade un governo si va al voto, si scelgono dei nuovi candidati alla presidenza del Consiglio e poi si chiamano i cittadini a scegliere. Qui abbiamo preso una scorciatoia determinata da una situazione drammatica, una situazione che secondo me è certamente molto difficile per noi, ma che è stata indotta anche da elementi pesantissimi di influenza esterna. Mi riferisco ad esempio la Banca Centrale Europea, i governi di Parigi e di Berlino, non sono certamente secondari. Quindi speriamo che vada bene, questo governo è fatto da personalità di grandissimo livello, di grande prestigio. Ho l'impressione che questo governo abbia tutta l'intenzione di resistere almeno fino alle elezioni e chissà dopo cosa può succedere. Non mi sembra gente che vada al governo per stare lì 4 mesi e poi fare le elezioni, assolutamente. Quindi ci sarà una sorta di gioco di sottile ricatto tra il governo dove non ci sono politici e una maggioranza che si deve formare di volta in volta in Parlamento su ogni provvedimento che verrà presentato da questo governo. Bene, allora speriamo che vada bene. Speriamo che vada bene, ma come avete sentito nella parola di Rinaldo Giannola, e del resto per questo l'ho chiamato, molti dubbi, perplessità intorno ai cambi di ruolo di grandi banchieri che diventano ministro dello sviluppo, delle infrastrutture e dei trasporti. Sui Secchioni, questa cosa di Secchioni mi ha molto colpita perché oggi quotidiani di orientamento molto diverso prendono in realtà questa cifra del governo e ne fanno il titolo d'apertura, perché il Foglio titola per esempio il governo del preside del consiglio di facoltà, Libero titola il governo dei Secchioni, anche la Repubblica però titola il governo dei 18 professori e lo dico con un po' di bonomia, non so se prenderlo per un complesso di inferiorità in generale della classe giornalistica italiana, che in realtà titoli analoghi non ne può vantare, diciamolo. Non è detto che bisogna farlo, ma io sarei perché anche i giornalisti facessero un po' di cose all'estero prima di iniziare il loro mestiere, oppure perché davvero viene interpretata come una cosa che scendono dalla luna sti professori, perché poi questo secondo me è il vero significato. Il giornale invece sceglie una cifra molto diversa, dice: il governo di larga Banca Intesa, i nuovi padroni vogliono comandare anche dopo il 2013. Qui c'è la traccia di chi dice, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Bocchino, che in realtà questa è gente che fa un governo tecnico, sì, ma per modificare l'offerta politica. Lo considero ragionevolmente probabile anch'io, però il problema è che non è affatto detto che sia un male rispetto all'offerta politica che c'era nel campo moderato. Chi infatti ragiona come il giornale vuole difendere comunque la centralità di Silvio Berlusconi, io considero la pagina chiusa, quindi considero che se nel mondo moderato ci fosse una svolta di competenza e credibilità e non più fondata sulla leadership e gli interessi di una persona, sarebbe un bene per l'offerta politica moderata. È ovvio che chi la pensa diversamente invece tenda a dire che questa roba non sta nelle corde. E perché non stava nelle corde? Che nel 94, grazie a quella geniale all'epoca intuizione di Berlusconi, le cose non andarono attraverso una scontata vittoria della sinistra dopo Mani Pulite, e perché non dovrebbe avvenire qualche cosa di analogo e diverso, magari non incentrato su un'azienda, ai soldi di un'azienda. Direi che queste sono le due presentazioni del governo che mi hanno colpito di più. Io personalmente aggiungo che nel considerare anomala quanto volete la composizione dei governi tecnici e il fatto che la politica non riesca, per le palle che racconta, mai a governare la transizione in Italia, non c'è riuscita nella fine della Prima Repubblica, evidentemente non c'è riuscita in questa travagliata fase della Seconda Repubblica, e vedremo se non finisce la Seconda Repubblica in questo modo, perché tutto fa pensare di sì per come l'abbiamo conosciuta, e perché cambi davvero bisogna vedere se poi cambiamo anche la legge elettorale, e attenti che se cadiamo poi nel proporzionalismo però ci facciamo male ancora di più. Però detto questo, l'anomalia di Corrado Passera, tutti mi chiedono l'anomalia di Corrado Passera. Guardate, Corrado Passera ha studiato bene in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, per quello ha voluto l'accentramento delle deleghe, da quello che so, come intervenire facendo appello a capitale privato, a capitale mercati internazionali, nel capitolo sul quale più abbiamo perso punti in questi ultimi anni, proprio nel campo delle infrastrutture, dei trasporti, della logistica, dell'edilizia e così via, con schemi di funzionamento del project financing per il capitale privato. Ancora nel 2010 in Spagna hanno fatto 4 volte project financing con capitale privato rispetto a noi, e sono in crisi molto peggiore. Vi ricordo che l'edilizia nel nostro paese è da 5 anni, 6 praticamente col segno meno, e negli ultimi 2 anni abbiamo avuto 200.000 disoccupati solo nell'edilizia, perché non siamo riusciti a farle ripartire col piano casa le cose. Insomma, ha delle idee su come alzare l'output potenziale del nostro paese senza mettere mano alla finanza pubblica. Vedremo, perché poi ci sarà bisogno certo del mercato del lavoro, e tutti sappiamo di aspettare sul riequilibrio della tassazione per la crescita, cioè come si fa meno cuneo fiscale dove si prendono le risorse per farlo, e sulle pensioni, contributivo pro rata. Io ci metterei la firma sul contributivo pro rata di Elsa Fornero. Poi Elsa Fornero non piacerà al centrodestra perché è del PD e lo sappiamo tutti, però il suo contributivo pro rata ha il merito di aggiungere il fatto di alzare a 63 anni l'uscita e di renderla flessibile fino a 70, ma di estendere il contributivo a tutti coloro che erano stati praticamente esentati dalla riforma Dini. E quando dico esentati non lo intendo solo per il calcolo di 18 anni di anzianità o meno all'entrata in vigore della riforma Dini, intendo per esempio i professionisti e i politici che erano esentati dal contributivo. Quindi secondo me il contributivo pro rata, se questa sarà la via che prende il governo, altrimenti perché avrebbero dovuto chiamare Elsa Fornero, è una cosa che insieme fa cassa, ma è giusta dal punto di vista intergenerazionale, più giusta del sistema attuale, per così dire. Vedremo sulla patrimoniale se c'è qualcosa. È chiaro che se si reintroduce IPC prima casa non si può pensare poi a una patrimoniale iperaggiuntiva. Io sono comunque contrario alle patrimoniali. C'è qualcuno che si diverte ogni giorno, oramai qualche servo dei servi della nostalgia del passato, che mi manda 5 righe velenose tutti i giorni dicendo: ah, ieri hai detto che sei per la mini patrimonialina. No, io ieri ho detto che il governo Monti dovrà stare stare attento a dosare come interviene sul fisco, e che se pensa a un abbattimento del cuneo fiscale, come hanno chiesto le imprese, con una mini patrimoniale, io vorrei ribadire che ho sempre detto che sono contrario anche questo, però intanto le imprese questa roba l'hanno già offerta, messa sul tavolo al governo, allora a maggior ragione dovrà scordarsi, se poi per di più rimette anche lì qualunque altra forma di intervento patrimoniale. Io sono convinto contrario alle patrimoniali, perché dimenticano il principio che si tassa aggiuntivamente ciò che è stato formato già tartassando sui redditi negli anni precedenti. Questa elementare, banale verità tendiamo tutti a dimenticarla, perché ragioniamo intrisi dall'idea che chi ha patrimonio accumulato è un cane miserabile che non lo merita. E questa idea, che è intrisa di ideologia per quello che mi riguarda, è in un paese a così alta tassazione sul reddito completamente da ribaltare, perché evidentemente ha in sé un'idea di giustizia costruita sul fatto che lo Stato deve mettere un tetto al massimo dei redditi e dei patrimoni, oppure colpirli e disincentivarli. Questa idea è, per quello che mi riguarda, sbagliata. Poi, se i professori lavorano a seguire, io continuerò a dire che è sbagliata. Mi interessa sapere, tra tutte queste cifre, il governo dei presi, il consiglio di facoltà, i nuovi padroni, eccetera, eccetera, il liberista amico De Nicola, quale cifra invece dà, quale lettura dà, e anche a lui chiedo la cornice della crisi europea, cosa si aspetta da questo punto di vista, cosa l'Italia può essere in grado di fare o di non fare dopo tutti i punti che ha perso nel consesso europeo. Prego. Io sono lievemente più ottimista, ho sentito prima il dottor Giannola, aveva un'intonazione un po' crepuscolare, invece forse per aver passato 3 anni e mezzo di pessimismo sono lievemente più ottimista. È un po' il mio stesso atteggiamento. Esatto. Per quello che riguarda il governo, meglio il governo dei professori del governo degli asini, siccome abbiamo avuto una certa quantità di rappresentanti. Bravo. della nobile stirpe animale. Di tunnel adesso, tra l'Abruzzo e qualche appunto, altro posto. Meglio adesso avere appunto magari un po' di professori, ammiragli, ambasciatori. Ecco, l'unica cosa, io sono sempre rimasto colpito da questa frase che mi rimane stampata di Montanelli, che chi è vischero fin da giovane. Però ecco, forse qualche forza fresca in più rispetto a quella che c'è avrebbe potuto usarla il governo, ma stiamo parlando dei dettagli, francamente. Cosa deve fare l'Italia? Ancora una volta io penso che i mercati ragionino in modo abbastanza semplice e semplificato, soprattutto quando si tratta di paesi che sono difficili da capire come l'Italia. L'Italia è difficile da capire per gli italiani, le analisi sono sempre complesse, c'è chi pone l'accento sulla struttura miracolosamente solida del nostro tessuto industriale, della piccola e media impresa che riesce a crescere, c'è chi mette l'accento su una parte del paese che è quasi ingovernata o ingovernabile, chi sugli sprechi, insomma, o sull'alta tassazione. È un paese veramente complesso, quindi gli investitori, soprattutto gli investitori stranieri, ma anche gli investitori italiani, ragionano semplice. Perciò se il governo Monti riesce a fare 4 cose abbastanza ovvie tutto sommato, cioè riesce a liberalizzare l'economia più di quanto faccia intendere la legge di stabilità, che comunque è un libro da ancora riempire, quindi più di quanto faccia intendere la legge di stabilità, si riesce a privatizzare molto di più di quello che faccia intendere la legge di stabilità, perché 5 miliardi l'anno di privatizzazioni obiettivamente sono una presa in giro per dire che stiamo privatizzando qualcosa, perché se il privatizzabile secondo quello che dice il capo economista della Cassa Depositi e Prestiti in Italia è 700 miliardi, se noi privatizziamo 5 miliardi l'anno, diciamo, se non è una presa in giro è giusto, perché non si può pensare che le persone siano così deficienti da farsi prendere in giro in questo modo. Quindi liberalizzazioni, privatizzazioni, taglio della spesa pubblica, anche qui c'è una parte simbolica che sono i costi della politica, perché è vero che 2 o 3 miliardi di costi della politica non risolveranno il nostro debito pubblico, ma sono molto importanti dal punto di vista della legittimità della classe politica, perché adesso noi abbiamo i tecnici, ma non possiamo non preoccuparci del fatto che la classe politica è completamente squalificata. Io non sono contento di avere una classe politica squalificata. Come libertario come lei, dottor Giannino, ho una diffidenza, come dire, intrinseca nei confronti dei politici. Detto ciò, non posso essere contento di avere una classe politica squalificata, mi basterebbe avere una classe politica normale, non squalificata. Quindi, prima di tutto, i costi della politica, perché ha una forte valenza simbolica, le pensioni, lei ha già ben riassunto, i costi dell'amministrazione pubblica, ivi compresa la sanità, e introdurre elementi di competizione all'interno di due grandi aree di spesa e di coesione e crescita sociale nel nostro paese, cioè la sanità e la scuola, che sono delle aree di cui sostanzialmente non si parla, se non per lamentare la mancanza di fondi. Le scuole chiudono, bisogna portare la carta igienica nei bagni delle scuole perché non c'è. Il problema della scuola e della sanità è la spesa che c'è, che bisogna ammettere in Italia non è tanto più alta della media europea, ma è anche vero che è mal distribuita e con risultati che non sono all'altezza della spesa, quindi o dovrebbe essere meno o dovrebbe essere meglio indirizzata. E poi ultima cosa, perché questo pistolotto era tutto sul lato della spesa pubblica, della razionalizzazione della spesa pubblica, il fisco. Allora, la patrimoniale, io ormai, come dire, sono rassegnato. Ci si è arreso. Non ho più fiato per dire no alla patrimoniale. Noi ci troveremo fra qualche giorno anche con lei per dire no alla patrimoniale, ma ho quasi perso il fiato. Allora, l'unica cosa che auspico e che vorrei e che penso che i mercati apprezzerebbero, che in un quadro di forte riduzione della spesa pubblica, se la patrimoniale è in un contesto di riforma fiscale a somma negativa per lo Stato, cioè sì, vale a dire che la pressione fiscale alla fine diminuisce perché o si interviene sull'IRAP o si interviene sui redditi da lavoro. Allora, insomma, come transizione verso questa cosa sopportiamo? Tanto sono rassegnato, quindi come dire, visto che... Vedi, avvocato De Nicola, io una delle colpe storiche che di fronte a tutti coloro che adesso vi dicono che sono diventato un servo dei comunisti o dei tecnocrati eccetera eccetera, io sorrido, una delle colpe storiche che da sempre e per sempre attribuirò al fallimento di questo centrodestra uscente è quello di avere reso agli occhi di milioni di italiani sacrosanta, automaticamente giusta, invocata più della Madonna, la patrimoniale. Un centrodestra pronto e moderato che ha come effetto conseguente del suo fallimento questo bel risultato, che si radica per la sua semplicità, per la sua immediatezza, ma anche per la sua carica di assegno in bianco alla politica e a uno Stato che non ha nessun limite nella spesa pubblica e nell'aumento della pressione fiscale e che incrementa di tanto la possibilità di margine per politici irresponsabili, speriamo che lo siano invece responsabili questi tecnici, quello è un fronte moderato che non ha titoli per parlare. E su questo mi dispiace per Giuliano Ferrara, per Vittorio Feltri, per l'amico Maurizio Belpietro, tutta gente con cui ho condiviso esperienze professionali. C'è veramente un fossato incolmabile tra chi pensa che un fronte moderato debba nascere in questo paese responsabile e incatenato alla sua capacità di ottenere risultati concreti e l'idolatria sciocca e vana con cui dopo 17 anni essi difendono questo bel popò di fallimento. Grazie Rinaldo Gianola e grazie all'avvocato De Nicola. Ora andiamo alla pubblicità e poi alle vostre telefonate. Leggo da un'intervista: il PD non ha corrisposto alle aspettative mie e a quelle di tanti entusiasti alla sua nascita. Bersani è un'eccellente persona, un ottimo ministro e Stato, ha dimostrato anche in questa circostanza un politico eccellente, fermo, intransigente sui suoi principi, ma duttile come la circostanza richiedeva. Sì, ma in un'epoca in cui la comunicazione è così importante, lui però è più efficace comunicativamente nella versione crozza che in quella originale. Chi ha pronunciato queste parole non veramente molto edulcorate né di sostegno? Carlo De Benedetti, nella sua intervista al Corriere della Sera di oggi, in cui dice: lo show è finito, ma anche il PD ha deluso le mie aspettative. Sostegno al governo dei tecnici e sì alla patrimoniale per tutti, dice, per tutti sotto l'1% come aliquota, che è molto elevata, non è che sia bassa, una patrimoniale light, dice lui, per diminuire le iniquità della distribuzione dei patrimoni. Questo è proprio l'argomento classicamente sul quale io sono contrario. contrarissimo. L'Italia, nel suo famoso 47% di stock di ricchezza netta nelle mani del 10%, il decile più alto degli italiani, che da mesi alimenta il dibattito al quale dà questa risposta Carlo De Benedetti, dimenticano sempre tutti di dirvi che negli altri paesi avanzati ciò che detiene il 10% è più elevato che in Italia, cioè l'Italia ha una distribuzione patrimoniale che è meno aperta a forbice, quindi meno ingiusta dal vostro punto di vista di quanto non sia altrove, parecchio meno ingiusta di quanto non sia altrove. In ogni caso io sono contrario all'idea che sia lo Stato che deve fare la livella come nella poesia di Totò, e qui ci si divide in due perché voi non riuscirete mai a convincermi del contrario, e con ogni probabilità invece io non riuscirò mai a convincere del contrario coloro che credono che lo Stato debba usare le forbici alle teste e ai capelli altrui, perché si inizia con i capelli e si finisce con le teste. Questo non è che lo dice Giannino, lo ha insegnato la storia del secolo che abbiamo alle nostre spalle, dei 150 anni che abbiamo alle nostre spalle. Naturalmente voi potete pensare che voi vi fermerete alle forbici. Fino a questo momento chi in nome dello Stato mi ha usato le forbici ai miei avi ha finito per tagliare le teste, e per questo io ne diffido. Sentiamo come la pensate però voi. Cominciamo con Roberto da Firenze. Prego Roberto. No, io mi chiamo Roberto, 46 anni, sono un agente di commercio e vendo da 20 anni macchine utensili a controllo numerico, quindi sono a contatto tutti i giorni con la piccola e media impresa. Piccola media impresa significa anche famiglia ovviamente, quindi significa aspettative per quello che è il lavoro di tutti i giorni. Gli imprenditori non fanno altro che rischiare appunto quotidianamente tutto quello che hanno per migliorare ogni giorno quello che fanno. In Italia probabilmente pochi se ne sono accorti, nel senso che la Marcegaglia, i politici, i grossi, ma anche voi giornalisti, che magari intellettualmente alcuni di voi purtroppo molto pochi sono onesti, ma veramente molto pochi, ma preparati, come per esempio se mi permette lei mi sembra una persona intellettualmente onesta e preparata, e questo mix probabilmente non è molto diffuso. Detto questo, chi veramente ha contatto con questa realtà? I politici credo in Italia siano, come posso dire, incivili, abbiamo un'inciviltà politica, abbiamo una classe politica incapace di dare una chiave di lettura vera ormai da 40 anni a questa parte. Quindi Monti le piace o no? A me Monti piace molto, nel senso che è l'ultima spiaggia, sono tutti tecnici, è l'ultima speranza che abbiamo per sopravvivere. Vorrei però, chiudendo e salutandola, dire che la classe politica in Italia è rappresentativa di noi italiani, disse bene una volta il buon presidente Cossiga, quando anche i cretini devono essere rappresentati in Parlamento. Ho purtroppo la sensazione che in Italia a questo punto ci siano, la maggioranza degli italiani siano dei cretini, perché veramente io non riesco a concepire la politica in questo modo. Non c'è più un confronto vero, un confronto leale, anche un combattimento intellettuale sul merito, numeri alla mano, e senza dire che i numeri dell'altro sono infondati se fanno riferimento poi a serie statistica, contabilità nazionale. Roberto, ha detto un'altra cosa, chiedo scusa, prego. Il professor Monti, durante uno dei suoi discorsi iniziali, che probabilmente negli ultimi anni la classe politica si è distratta guardando soltanto al giornaliero, al combattimento giornaliero, senza guardare la prospettiva. La classe politica in Italia non esiste perché è figlia di un sistema viziato, determinato da probabilmente una cascata di denaro che è arrivato dall'Ovest, dagli Stati Uniti, prima della caduta del muro di Berlino, e poi mi fermo qua perché sennò Si entra un po' nella teoria del complotto, che non mi dica che è colpa degli americani che la politica italiana è ridotta così, perché mi scappa da ridere. Sergio da Roma. Buongiorno, mi sentite? Sì, prego, dica. Senta, io volevo dirle che ho fiducia nel governo Monti, in quanto governo tecnico, visto che né da sinistra né da destra prenderanno mai decisioni antipopolari, perché sennò ci rimettono la faccia contro l'elettorato. E se proprio devo scegliere tra una ICI nuova, o meglio una reintroduzione dell'ICI, sì, un prelievo forzoso sui conti correnti, la meno peggio mi sembra il prelievo forzoso, perché almeno dovrebbe pescare su tutti gli italiani che hanno un conto corrente. Invece lì la pagheranno solamente quel 70% di italiani proprietari di casa. Io mi auguro che un conto corrente ce l'abbiano tutti. Va bene, non so quanti la pensano come lei, questo sarebbe interessante aprire una specie di dibattito. Preferite l'ICI o il prelievo forzoso sul conto corrente? Sentiamo come la pensa Stefano, che ci chiama dalla provincia di Venezia. Buongiorno, io volevo voglio porre una domanda a lei. Facciamo un'ipotesi. Da adesso in avanti il governo tecnico funziona. Riesce a fare le riforme, riesce a metterci un po' in carreggiata. La mia domanda è, tra un anno e mezzo, quando andremo a votare, che cosa succederà? Dovremo rivotare un'altra volta i politici, quegli stessi che ci hanno messo in queste condizioni, indipendentemente che siano rossi, verdi, blu, non ha importanza, è colpa di tutti. E se vorremmo votare ancora questi tecnici, che fine faranno? Dovremo rimettere in sella ancora quelli che ci hanno portato in queste condizioni? Stefano, io le rispondo al volo, io mi auguro di no. Io lavoro intellettualmente perché ci sia una modifica dell'offerta politica da una parte e dall'altra. Credo che avverrà, mi auguro che avverrà. Nel frattempo non so cosa avviene in Europa, perché poi quella è la cosa che mi preoccupa di più. Noi ragioniamo come se ci fosse il problema italiano c'è, grande, è aggiuntivo, però un contesto di un'unione europea e monetaria che si avvia a saltare ed è una cosa che ha conseguenze epocali e impatti incalcolabili. Per questo ci vuole classe dirigente serie, autorevoli, capaci di sedersi ai tavoli, trattare anche l'inipotizzabile, quello che abbiamo escluso fino a pochi mesi fa. I mercati non sono stupidi, purtroppo. Io non li deifico, sono fatti da uomini, quindi commettono molti errori e si muovono come greggi che sollevano grande polvere e vanno in direzioni talvolta obbligate senza ragionare. Detto questo, il mercato scommette sul fatto che l'euro non c'è più tra pochi mesi. E per questo io mi auguro che i tecnici risolvano il problema italiano con credibilità, recuperando credibilità. Non aspettiamoci il miracolo sullo spread, perché scende di 150 punti al massimo, ma non di più, e purtroppo sale per tutti gli altri. Terzo, seduti incrollabilmente a quel tavolo in cui francesi e tedeschi altrimenti prendono decisioni sulle nostre teste. Questo è il mio programma. Quarto, modifica dell'offerta politica, ma bisogna arrivarci. Nel frattempo ci sono prove terribili che aspettano questo governo, che ha molti limiti, che non piacerà tantissimo, come si vede dai giornali di oggi, e quindi sa, siccome sono persone abbastanza intelligenti, che ha delle difficoltà terrificanti. This is the end. Ed eccoci, come in tutte le nostre fine con i Doors in sottofondo. Mi chiedono, ma i tecnici hanno funzionato altrove? Come se hanno funzionato in un paese in cui i politici sono totalmente responsabili? Degli esempi, prendete per esempio il governo di Leszek Balcerowicz in Polonia tra l'89 e il 91, praticamente abbatté l'imperinflazione dell'85% rispetto a quello, e rimise il programma di crescita dei voucher attraverso cui si privatizzavano le aziende in un sentiero che poi non è finito come in Russia negli affari degli amici e degli amici. Per questo la Polonia non ha mai avuto il segno meno sulla sua crescita in questi anni. Lo si deve anche a tecnici come Balcerowicz. Oppure altri, Fernando Henrique Cardoso in Brasile dal 93 al 2003. Il Brasile funziona oggi e la grandezza di Lula è stata quella di non cambiare le politiche di Cardoso, perché in 8 anni Cardoso gli ha dato una politica rigorosa sul bilancio pubblico. Loro l'hanno allentata un po', quelli con Lula e con la presidente attuale, ma non l'hanno buttata a mare, e dandogli un saldo commerciale di partite correnti che il Brasile non aveva mai avuto. In quegli 8 anni è nato il Brasile che oggi è il Brasile che conosciamo. Insomma, molti si dividono su invece la figura del tecnico Domingo Cavallo in Argentina e il peg fisso sul dollaro, perché è ovvio che se tu metti un'economia un po' squilibrata su una moneta forte, o salta la moneta o salta l'economia alla fine, e all'Argentina è capitato così. Ma il tentativo non era poi così sbagliato, visto che gli argentini politici mentono e fanno clientelismo. Forse sono tra i pochi che lo fanno nella media per un cattivo sistema istituzionale, quasi più o quasi come gli italiani. Sentiamo come continuate a pensarla voi, però, con Alessandro, che ci chiama da Bologna. Prego, Alessandro. Sì, buongiorno, dottor Giannino. L'ascoltatore precedente in realtà mi ha anticipato sulla domanda, ma a questo punto la volevo sviluppare con una considerazione. E cioè, se è vero che il governo tecnico dovesse prospettare un funzionamento per cui magari usciamo dalla situazione drammatica nella quale ci troviamo, e se è vero che il mercato sta scommettendo sul fallimento dell'euro, allora non può essere che magari sarà il Parlamento stesso a boicottare i provvedimenti del governo Monti per cercare di acquisire credibilità e andare nella direzione dell'uscita dell'euro? No, io alla sua domanda, il Parlamento e quindi le forze politiche che iniziano a boicottare il governo, credo che ci sia un'elevata possibilità. Che in Italia vi sia un'elevata possibilità che il quadro politico tenda a cavalcare l'uscita dell'euro, le do già la risposta di cui sono convinto da mesi. Credo che a scoprire prestissimo la campagna anti-euro sarà la Lega da una parte, e dall'altra però pezzi della sinistra antagonista. Le ragioni saranno diverse, ma in fondo convergenti. Le ragioni diverse sono: da una parte non ci conviene, andiamo con la parte dell'Europa a cui apparteniamo per vocazione manifatturiera pro capite nel nord, dall'altra sarà non mi riconosco nei costi sociali imposti dai banchieri e dai tecnocrati di Francoforte e di Bruxelles. Due letture diverse, ma io credo che, siccome negli altri paesi avanzati, in tutte le ultime elezioni ci sono state formazioni politiche a destra e a sinistra che hanno preso bei voti cavalcando in maniera forte questi temi, non vedo perché in Italia non dovrebbero avvenire. Sono più curioso nel capire come reagirà la classe dirigente del PDL e del PD a questa, che è una sfida epocale, rispetto alla quale sento poche parole, poche analisi, e sono tutti a guardare l'ombelico o del dire viva il governo Berlusconi che è appena caduto, oppure noi siamo i fichi, noi siamo i meglio, non come voi berlusconiani. Però il contesto europeo credo che sfugga molto a loro fino a questo momento. Bene, io mi devo scusare con Anna da Roma perché il tempo oramai è finito, e questa parte finale qualche volta ve la faremo sentire in tutta la sua bellezza. Intanto a me tocca salutare dall'appuntamento giornale radio e darvi appuntamento a domani, dopo che il discorso programmatico ci avrà reso chiaro la cifra di questo vero governo.